l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e ben ritrovati all'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale dove tentiamo di fare cultura europea, l'Europa che viene narrata ogni giorno da Radio 24, nella politica, nell'economia, il sabato uno spazio per davvero cercare anche altri punti di vista. Le coordinate per seguirci anche sui social network, facebook.com/l'altra Europa oppure su Twitter, @FedericoTaddia, queste pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dalla Grecia. Raccontare una nazione, o meglio, si può raccontare una crisi attraverso un genere musicale? Questa è la domanda che si sono fatti due artisti, un cantautore, Vinicio Capossela, e un regista documentarista, Andrea Segre, che hanno viaggiato nella Grecia di oggi per raccontarla attraverso la musica. Un primo spezzone di questo documentario, di questo film, è stato presentato in questi giorni a Venezia e con noi c'è Andrea Segre. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao a voi, buon sabato. Avete scelto la musica come filo conduttore della Grecia di oggi, ma una musica particolare. Sì, la musica rebetica. Il rebetico nasce dall'esodo biblico quasi, perché in Grecia si chiama ancora la Katastrophis. Dopo la guerra greco-turca del 22-23, quasi 1,5 milioni di greci furono costretti ad abbandonare l'Asia Minore, la città di Smirne, e spostarsi nei porti di Salonicco e di Atene. E 1,5 milioni di persone nella Grecia d'allora era come se domani dovessimo ospitare 15 milioni di italiani che d'improvviso arrivano nelle nostre città. E in quei porti, in quei quartieri nuovi nati da questo esodo, si viveva male, era una vita difficile, dura, e in quella durezza, in quel dolore, in quella sofferenza per quella fuga, nasce il rebetico, una canzone, una musica che porta l'Oriente dentro di sé, però vive nella cultura occidentale greca, ed è una musica ricca di verità, quelle più dure, quelle più scomode, quelle che hai voglia di vedere in faccia, perché nella vita sembra non esserti rimasto altro. E questa musica poi negli anni, nei decenni, rimane dentro al DNA della civiltà greca, della cultura greca, e diventa un po' uno strumento con cui una parte della società greca affronta i momenti di difficoltà, i momenti di dolore, i momenti di crisi. E così anche oggi, di fronte a questa nuova crisi, che per noi non è soltanto una crisi greca, ma è una crisi del rapporto tra il cittadino occidentale e la società, del cittadino e l'economia, il rebetico diventa uno strumento, una lingua, un'occasione per provare a raccontarci durante la crisi con quelle parole che sembrano venire da un passato lontano, ma che ancora fanno parte di questo presente. E sono attualissime. Un viaggio il vostro qualche settimana tra Atene, Salonicco e Creta. Cosa avete visto? Cosa avete trovato? Cosa avete raccolto? Siamo stati nelle taverne di Atene e di Salonicco, perché il rebetico è una musica che si ascolta mangiando, è una musica che si ascolta seduti a tavola e che si canta bevendo lo zippuro e che si festeggia spaccando i piatti per terra all'interno delle taverne. E così siamo stati in queste taverne con alcuni dei musicisti che continuano a suonare rebetico e molto spesso si suonano ancora quelle canzoni, quelle degli anni 20, il repertorio è quello, è un po' come la lirica in Italia, no? Non, nessuno più compone lirica, certo. Si continua a cantare il repertorio lirico. Qualcuno scrive del nuovo rebetico, qualcuno cerca di contaminarlo con altri suoni. Abbiamo sentito prima la voce di Teodora Atanasiu, che è una ragazza giovanissima di 29-30 anni, che unisce rebetico e swing, rebetico e blues, che poi unire rebetico e blues è in qualche modo riconoscere l'anima blues del rebetico, perché molti dicono che il rebetico sia il blues della Grecia. Andrea, colloquio dell'artista, che crisi avete visto, che crisi avete toccato, nel senso che è una crisi anacquata quella che si vive nelle taverne, o c'è percezione reale di quello che sta accadendo fuori dalla taverna? La crisi in Grecia c'è, la tocchi nella vita quotidiana, è già più potente di quella che viviamo noi, anche se fa parte della stessa che stiamo vivendo noi. Siamo già nella fase della paura vera, di quella che non sai se la tua famiglia ce la fa, di quella che tu, padre di famiglia, vedi i tuoi figli senza lavoro e nello stesso tempo la tua pensione, il tuo salario erodersi mese dopo mese. È una situazione che terrorizza sicuramente, e che mette di fronte a quegli orizzonti di povertà che pensavamo di aver cancellato, no? Fino a 5-10 anni fa eravamo convinti che la storia fosse finita, no? Che noi fossimo arrivati, che noi ormai facciamo parte del mondo che ce l'aveva fatta, del mondo in cui tutto è sicuro, in cui puoi comprarti quello che vuoi e allora puoi comprarti anche la felicità. E poi invece a un certo punto, da qualche anno, iniziamo a capire che era tutto finto, era tutta una bolla. E allora, se la felicità potevi solo comprartela, come riesci oggi a ritrovarla in altre cose, non nel consumo? Una musica come quella del rebetico, che nasce da persone che avevano perso tutto, è una musica che nelle sue parole e anche nelle sue note, nei suoi strumenti, ti dà questa possibilità di cercare un pezzo di disperata felicità dentro di te, un pezzo di tua identità che non puoi consumare o comprare, ma che devi imparare a vivere, a conoscere. Ed è una sfida importante che non soltanto i greci devono imparare ad affrontare, ma che credo dalla Grecia possa arrivare anche a noi e aiutare anche noi. Rebetico è il titolo provvisorio di questo documentario che stai montando in questo momento, l'uscita nelle sale previste per la primavera 2013, e complimenti intanto per il lavoro fatto fino ad ora, in bocca al lupo per la parte adesso, no? Perché è una cosa avere il materiale, adesso viene il bello per il regista. Adesso viene il bello, abbiamo 90 ore di immagini, adesso si tratta di costruire la trama che porterà poi ad avere il film, come dicevi, all'incirca per la primavera prossima. Grazie davvero, buon sabato, ciao. Grazie a voi. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Chuck si gira. Partono i Viral Video Award 2012. Il concorso per videomaker di qualunque livello fa parte del 28esimo Festival Internazionale di Cortometraggi di Berlino. Coloro che desiderano partecipare devono inviare un video con un breve messaggio che sia promozionale, politico o totalmente originale. Il video non deve essere stato prodotto da più di 2 anni. I premi sono 3, da 1000 euro ciascuno, e saranno assegnati in diverse categorie: premio audience, premio della giuria e premio per il miglior video virale politico sui temi legati al clima, la democrazia e la giustizia. La votazione online si svolgerà dal 15 ottobre al 15 novembre 2012 sul sito web viralvideoaward.com. I video in concorso verranno mostrati in occasione del 28esimo International Short Film Festival di Berlino dal 13 al 18 novembre 2012. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante il festival il 16 novembre 2012. In bocca al lupo! L'altra Europa. We'll be right back.

Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, facebook.com/l'altra Europa oppure chiocciola Federico Taddia per seguirci anche sui social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Un programma in collaborazione con Euronet, euronet.eu, il nostro portale transeuropeo, tanti dossier, tante inchieste in tante lingue diverse e ogni settimana un argomento comune che viene sviluppato, che viene articolato. Oggi si parla di Rom. Allora, signora Casati, come le dicevo? Scusi un attimo. Tutto bene, signora? Io sto inseguendo uno zingaro. Vuole che chiami la polizia? Signora? No, è mio figlio! Peccato! Mi richiami domani alle sue 30, per cortesia? Certo, signora. Oh, io! Ciao, mamma! Devo scappare, ciao! Non c'è nessuno di più! E tu? Quanti zingari conosci? Dosta, e tu? Quanti zingari conosci? Lo spot che abbiamo scelto per introdurre l'argomento. Si parla di Rom dopo quello che è successo poche settimane fa in Francia, ma il tema dei Rom è sempre attuale, non è solo un tema italiano, è un tema assolutamente europeo, e tanto che in Europa esiste una piattaforma europea per i Rom. Per capire che cos'è questa piattaforma e soprattutto per capire cosa sta succedendo oggi in Europa in difesa dei diritti dei Rom, abbiamo invitato Evelina Jelenkovska, che è la portavoce in Italia della Commissione Europea. Buongiorno Evelina. Sì, buongiorno. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Evelina, che cos'è la piattaforma Rom, di cui abbiamo sentito parlare molto in queste settimane? Sì, piattaforma Rom è un'idea che è nata a settembre 2008, è un forum di cooperazione che riunisce governi nazionali, l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali e anche la società civile Rom, cui scopo è quello di scambiarsi le buone pratiche e cercare di trovare un modo per affrontare la questione dei Rom a livello europeo. Mm-hmm. Quindi non solo parole, che spesso, no, è una critica che viene fatta a queste piattaforme, quando soprattutto non si conoscono, ma anche strategie concrete. Strategie molto concrete, sì. Ecco, un problema europeo. Assolutamente. Diciamo che vorremmo guardarlo più come un'opportunità che un problema, perché in realtà le cifre, abbiamo circa 10-12 milioni di Rom che hanno un grande potenziale anche per l'economia, quindi non parliamo solo del bisogno di integrare i Rom perché sono europei, sono i cittadini europei che hanno diritti, tutti i diritti come tutti noi, ma anche è un potenziale perché pensiamo che un'età media dei Rom è 25 anni contro i 40 dell'Unione Europea, che sappiamo è un problema all'invecchiamento della nostra società. Quindi, tornando un attimo, se mi permetti, alla certo. piattaforma e a quello che sta succedendo effettivamente di concreto a livello europeo, la Commissione Europea ha fatto una ricerca perché ha messo a disposizione di questa piattaforma le proprie risorse analitiche e l'anno scorso ad aprile ha proposto un quadro europeo per le strategie nazionali, quindi ha invitato tutti gli stati membri di sviluppare le strategie e di concentrarsi su quattro principali obiettivi, perché sono quattro i temi che si pensa siano prioritari. Uno è l'istruzione, quindi dare l'accesso all'istruzione. Due è l'occupazione, quindi sì. migliorare l'accesso della popolazione Rom all'occupazione. Terzo è la sanità e il quarto è chiaramente l'alloggio. Questi quattro obiettivi sono stati sviluppati effettivamente nelle strategie nazionali dei paesi dell'Unione Europea, che sono stati presentati quest'anno, quella italiana del resto di recente a marzo 2012, dove ogni paese membro spiega esattamente che cosa in concreto ha intenzioni di fare per migliorare l'integrazione delle popolazioni rom nel proprio paese. Certo, Evelina, ci sono anche tanti cambiamenti culturali da proporre. Già il fatto che tu abbia detto i rom non sono un problema, sono un'opportunità, mi sembra una bellissima strada. Poi magari è difficile da spiegare nel breve tempo ai cittadini. Queste strategie comprendono anche proprio piani di comunicazione o piani di integrazione reale? Certamente sì, sappiamo che i rom stiamo affrontando un problema anche psicologico e sociologico, perché ovviamente anche pur essendo le popolazioni piccole, perché per esempio in Italia i rom non rappresentano più di 0,23% della popolazione, quindi veramente niente, cioè sono intorno a 140.000. Si stima, sì, perché ovviamente le stime non sono, certo, molto per ovvi motivi, eppure c'è questo sentimento che bisogna assolutamente invertire, e qui si pensa che il modo migliore, quella cosa immediatamente da fare, sarebbe da cominciare dai più giovani, dai più piccoli rom, di integrarli meglio, al meglio ancora, dentro la nostra educazione, non cercare di crearli delle opportunità, delle condizioni perché possano effettivamente seguire l'istruzione, perché per il momento, oggi come oggi, per esempio il percentuale dei piccoli rom che finiscono l'istruzione primaria è solo 42% contro oltre 97% degli europei. Quindi è questo è un vero investimento, però ovviamente a lungo termine. Certo. Evelina, prima ci hai detto ci conviene anche proprio economicamente integrare i rom. Perché? Quando ti chiedono il perché, proprio anche in una chiacchiera informale, qual è la risposta che dai? Beh, diciamo che queste sono ovviamente le stime che abbiamo a disposizione. Questa è una ricerca fatta dalla Banca Europea, sì, che suggerisce che si potrebbe arrivare a un guadagno, o tra guadagno e risparmio, di circa mezzo miliardo di euro l'anno per l'economia europea, quindi non è da poco. Dove sono questi soldi? Beh, i soldi sono tra integrare la popolazione nel mercato di lavoro. E qui potrei dare per esempio un buon esempio, perché abbiamo già esempi di buone pratiche, Bulgaria, Romania, sappiamo che loro hanno la presenza molto maggiore che non per esempio l'Italia dei rom, e hanno applicato varie misure che già stanno dando frutta. Per esempio oggi circa 23% di giovani che prendono il primo impiego in Bulgaria sono rom, di origine rom, mm-hmm, lo stesso in Romania, quindi vediamo, questo è un diretto partecipazione all'economia, questo di conseguenza poi anche per migliorare la produttività, e ovviamente d'altro canto abbiamo degli risparmi a livello di spese sociali. Assolutamente, insomma tanto lavoro da fare, però mi pare di capire che ci sono le idee abbastanza chiare, quindi possiamo assolutamente essere ottimisti. Grazie davvero ad Evelina Jelenkovska, portavoce della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Evelina, buon sabato, a presto. Grazie, a presto. Europost-it. European Job Days. State cercando un lavoro in Europa e magari vorreste entrare in contatto diretto con i datori di lavoro europei? Avete bisogno di aiuto e informazioni pratiche sulle condizioni di vita e di lavoro in un altro paese europeo? Lo European Job Day Brussels 2012 è l'evento perfetto per voi. In questa occasione chi cerca lavoro ha l'opportunità di fare colloqui sul posto, farsi correggere il curriculum, assistere alle presentazioni delle aziende più appetibili e delle delegazioni di diversi paesi europei. I datori di lavoro potranno scegliere i loro futuri dipendenti e collaboratori tra centinaia di giovani europei desiderosi di fare esperienze all'estero. Quest'anno la fiera si concentrerà sui lavori green e tecnologici. Se siete interessati, visitate il sito europeanjobdays.eu/brussels. questi sono i nostri Europost-it che vi ricordo potete ritrovare sia sulle nostre pagine in Facebook sia sul sito radio24.it, segnalazioni, eventi che anche voi ci potete consigliare, l'altra Europa @radio24.it. Tante volte in questo programma abbiamo detto che l'Unione Europea la si fa soprattutto partendo dalla cultura e vogliamo portare un frammento all'interno del nostro programma di quello che è accaduto in questi giorni, anzi in questi anni al Festival Letteratura di Mantova, dove si sta tentando di realizzare una sorta di vocabolario europeo. Ne parliamo con Giuseppe Antonelli, docente di linguistica italiana all'Università di Cassino, ideatore e promotore di questa iniziativa mantovana. Ciao Giuseppe. Ciao Federico. Ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un'utopia, ovviamente, quella di fare un vocabolario europeo, però una bella provocazione perché giocate sui contrasti, giocate sull'incontro, giocate così sul confronto tra le parole utilizzate dagli scrittori e nasce una sorta di itinerario comune. Sì, l'idea è quella che ogni scrittore, sono scrittori di tante lingue europee diverse, non necessariamente dell'Unione Europea, ci regala una parola, ci dona una parola che secondo lui è significativa, rappresentativa della sua lingua, della sua cultura, del suo paese. E ormai in 5 anni siamo arrivati a 60 parole da 27 lingue diverse, quindi non male, è una specie di paesaggio di parole, un'Europa di parole che si estende dall'islandese smjör, che significa neve, che Jón Kalman Stefánsson ha portato quest'anno al festival, e poi scendendo a sud invece nella prima edizione la scrittrice greca Caristiani aveva portato Talas, a mare, e non sempre però sono parole che riguardano la natura, sono parole che possono venire ad esempio dall'esperienza quotidiana o parole simbolo del tipo di tradimento. È l'unica parola che è tornata 2 volte nel corso del festival in 2 lingue diverse. Tradimento? Quest'anno lo svedese Svek e nella prima edizione Viktor Erofiev, lo scrittore russo Predetejvo. E poi è bello che i confini dell'Europa linguistica non coincidono con quelli dell'Europa politica, per cui ci sono degli scrittori che hanno una lingua madre diversa da quella del passaporto. Il caso più clamoroso fu nel 2009 Erta Müller, sì, che è una scrittrice romena ma di lingua tedesca, che portò la parola Lager. Dico clamoroso perché la intervistammo nell'ambiente così ristretto e familiare del vocabolario europeo e 3 settimane dopo vinse il premio Nobel. Certo, e da queste parole nascono anche percorsi, prima appunto parlavamo di percorsi transeuropei, c'è un esempio particolare, c'è una parola specifica che vi ha fatto fare un bel viaggio? Guarda, ogni parola ci fa fare dei viaggi, anche perché è bello poi discuterne con lo scrittore, le parole diventano storie, esperienze, aneddoti, atmosfere, profumi. E c'è in particolare un percorso che riguarda proprio la nostalgia della propria terra. Ci sono una serie di parole, diciamo anche quest'anno Antonio Prete, che ha scelto lontananza come parola italiana, ma ancor più il gallese Iraez, l'albanese Mal, il portoghese Saudagi, che tutte, scelte da scrittori di provenienza diversa, indicano quel sentimento malinconico di nostalgia per la propria terra. E quindi è un po' come se, per tornare all'importanza prevalente della lingua sull'appartenenza, sul passaporto, è un po' come se la lingua matria prevalesse sulla patria propriamente detta. Mm-hmm. Quindi insomma un esperimento significativo, un esperimento fatto di contaminazione, non si cerca una lingua comune europea, ma si cercano le tante comunanze, le tante assonanze che ci sono nella nostra lingua. A parole è facile fare l'unione, secondo te, Giuseppe? Ma guarda, in realtà è la cosa più difficile, uno dei veri problemi della possibilità di fare una vera Unione Europea è proprio questa grande frammentazione linguistica, che abbiamo lingue di ceppo germanico, slavo, oltre ovviamente alle lingue romanze. Il nostro esperimento però è proprio quello di valorizzare le differenze. Diciamo, l'Unione Europea da tempo, come politica linguistica, punta su quello che definisce il passaggio dal multilinguismo al plurilinguismo. Il multilinguismo è una situazione di fatto. In Europa, anche nella ristretta Unione Europea, si parlano tante lingue diverse. Il plurilinguismo invece è un passo avanti perché è introiettare questa situazione nella cultura di ogni cittadino, cioè che ogni cittadino gestisca, questo è l'obiettivo, almeno 3 lingue, Una è la propria lingua madre, irrinunciabile. Una è la lingua veicolare dell'inglese, lì è inutile girarci intorno. Possiamo, se vuoi, utopisticamente parlare di Esperanto, ma insomma è un dato di fatto che l'inglese è la lingua veicolare. Però la cosa originale è la terza lingua, la lingua di adozione, una lingua che ogni cittadino europeo sceglie, diversa dalla propria, per ragioni di gusto, di passione, perché ama la musica di quel paese, la letteratura di quel paese, perché va a fare le vacanze. Ecco, un cittadino, tre lingue, mi sembra un bello slogan e un bel progetto, e noi da 5 anni al vocabolario europeo facciamo risuonare anche lingue minoritarie, lingue regionali, perché abbiamo avuto quest'anno il catalano, in anni scorsi il basco, l'irlandese, abbiamo avuto il dialetto siciliano, il sardo. Far risuonare queste lingue che di solito magari non si sentono da noi, perché ogni persona possa scegliersi la sua lingua adottiva, la sua terza lingua. Grazie davvero Giuseppe Antonelli, docente di linguistica italiana all'Università di Cassino, e complimenti per il bel lavoro svolto. Ciao Giuseppe, alla prossima. Grazie a voi, ciao. Ci fermiamo, le informazioni un po' in ritardo, mi scuso, per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. The people you meet in Lisbona, it's almost like being in Disneyland. You meet every character you're thinking in the world. Willie Daly is my name now. I've lived here all my life and I'm a traditional Irish matchmaker. Siamo in Irlanda e quello che state ascoltando è un video promozionale del Matchmaking Festival, un festival lungo un mese, un festival composto da 4 weekend, un festival per trovare l'anima gemella. Per conoscere meglio questo festival, capire che cos'è, capire da dove nasce, abbiamo invitato Tony Kirby, lavora in Irlanda e ha studiato, vive in Irlanda e ha studiato a Bologna. Ciao Tony, benvenuto all'Altra Europa. Grazie Federico. Ciao. Allora, ciao. Che cos'è questo Matchmaking Festival? 40.000 persone ogni anno che lo frequentano, un fenomeno. Sì, è veramente un fenomeno Federico, è nato 120 anni fa, quindi il festival più antico dell'Irlanda, e Lisbona è una stazione termale in origine, e c'è un gran flusso di gente lì verso la fine del 1800, e tanti di loro erano agricoltori, volevano divertirsi, e alcuni di loro anche dopo aver fatto il raccolto volevano accoppiarsi, cercavano una donna, un'anima gemella. E allora in quel contesto è nata l'industria del matchmaker, tanti professionisti che si impegnavano ad accoppiare agricoltori e donne. Quindi proprio una professione. Una professione molto seria, sì, non si tratta di Twitter, o Facebook, o speed dating, è una cosa molto più, diciamo, umana, naturale, dove questi professionisti introducono gli agricoltori alle donne. E c'è ancora un professionista che fa questo lavoro a Lisbona, si chiama Willie Daly, quindi le tradizioni in declino un po', ma c'è ancora un professionista che fa questo lavoro. Cioè nel 2012 esiste ancora un matchmaker, c'è ancora qualcuno che si rivolge a una persona, a questo professionista, per trovare l'anima gemella? Appunto, lui ha avuto un cliente abbastanza famoso l'anno scorso, un cantante di nome Sinead O'Connor, che è abbastanza conosciuto in Italia. Lei è venuta a Lisbona al festival l'anno scorso alla ricerca di un agricoltore pelos, ma non ci è riuscito lei. Come hai detto che si chiama la località, scusaci? Si chiama Lisbona, a sud di Galway, Connemara. La contea si chiama Clare e vicino alle isole di Arran. Ok, e Tony, cosa succede in questo mese dove appunto si celebra questo bizzarro festival? Secondo loro c'è un flusso di circa 60.000 persone nell'arco del mese, 90% di loro sono irlandesi, e loro soprattutto sono in ricerca al divertimento, La pista da palo è molto importante, si parla da mezzogiorno fino alle 2 di mattina e ci sono corsi di cavallo e poi c'è sempre la gente che è in cerca di un'anima gemella tramite il canale informale, cioè i locali, la pista da palo, ma anche tramite questo professionista Willie Daly. Ecco, ma questo professionista, tu hai capito le sue competenze, quali siano? Cioè, come si diventa costruttore di nuove coppie? una buona domanda. Lui fa questo lavoro da 44 anni adesso, Willy. Lui intervista ogni cliente, e fa un profilo di loro e poi mette questa persona in contatto con uno che secondo lui potrebbe realizzare i sogni dell'altro. Fantastico. Tu, Tony, sei stato a questo festival? Sì, ci sono stato, ma non ho trovato l'amore di vita mia al festival. Io l'ho trovato da un'altra parte. Ho capito. quindi sei andato così, come semplice turista. Certo che sì. 40.000 persone sono tante, e credo che non siano 40.000 single, perché l'idea è proprio quella del divertimento. E ogni weekend sono organizzati eventi? C'è solo la musica, c'è solo il ballare o ci sono anche... Ogni giornata, non solo al weekend, ma per un periodo di un mese, ogni giornata, da mezzogiorno fino alle 2 di notte, ci sono balli in continuazione in 17 locali. E secondo Willie Daly, matchmaker, fra mezzanotte e le 2 di mattina in settembre, di Stunvana è il posto più romantico del mondo. Secondo lui. Tony, prima di salutarci, tu organizzi piccoli tour turistici, se non erro? Sì, io sono scrittore, Federico. Ho scritto un libro che si chiama Il Boren e le isole di Aran, guida ai percorsi a piedi, e ora sto scrivendo un libro nuovo, si chiama I Pozzi Sacri del Boren e delle isole di Aran. Anche in più faccio guida turistica, viviamo qua in una zona molto speciale, la zona più carsica, più estesa dell'Europa, si chiama Boren, e in questa zona io organizzo visite guidate a piedi in questa zona. Allora ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, così ci fai fare una visita radiofonica in quel bellissimo... Molto volentieri, Federico. Va bene, grazie, ciao e buon sabato. Ciao. E grazie come sempre anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Finisce qua questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra, a Margherita Ina e Viola Frifa, che con me l'hanno scritta, Peter Bescapè alla parte tecnica, Nadia Zammitti oggi in assistenza. Ci trovate su radio24.it, da dove potrete riascoltare il podcast della puntata. @ Federico Taddia per Twitter, facebook.com/l'altra Europa invece per la nostra pagina in Facebook. L'appuntamento è a sabato prossimo, come sempre alle 10. Ancora ciao da Federico Taddia.